Il nome di Maria, a me ricorda il mare, che mi ricorda il giorno che mi vorrei scordare. Che giorno, che tristezza, che notte, che agonia, che è come una carezza che il vento porta via. E il vento ancora sale, è un pianto disperato che mi ricorda il male che non ho meritato. Non dirlo, ti scongiuro, che mi fa ricordare che il cielo è ancora scuro, si sta gonfiando il mare, che canta una poesia che ancora porta su il nome di Maria, che non mi lascia più. Mi torna nella testa un desiderio che potrebbe risvegliare una tempesta in me. Il nome di Maria, che non mi lascia più, mi torna nella testa un desiderio che potrebbe risvegliare una tempesta in me.